Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Prima delle paure, dei tremori, diciamo almeno del Milan, di quella doppia prudenza di Abbiati, in ogni caso della inattesa serata di Londra, di cui parleremo più avanti in vostra compagnia, facciamo un passo indietro e facciamolo in compagnia di Paolo Casalin. Buongiorno Paolo. Ciao, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, intanto ricordo ai più giovani che Casalin non è stato solo un arbitro di caratura internazionale, ma è stato soprattutto un grande dirigente arbitrale. I ripassi servono sempre perché in ascolto ci sono ovviamente, beati loro, persone assai più giovani di noi. Io ti ho cercato per questo, perché quando domenica ho visto tre arbitri assistenti valutare esattamente tre palloni entrati in rete, uno di questi abbastanza di poco, secondo me, quello Liborini. E questo esattamente una settimana dopo un clamoroso errore, un clamoroso gol non visto, invece mi è tornato in mente un tuo paradosso, che a questo punto forse paradosso non era, di qualche tempo fa, che avevi scritto sul Corriere della Sera e poi ripetuto a questi microfoni, che cioè il, non dico la sparizione, ma il ridimensionamento del ruolo della moviola avrà anche fatto bene dal punto di vista ambientale al calcio, e su questo io non ho il minimo dubbio, ma ha fatto male agli arbitri, eh? Che dici? Mi sembra prova del no. Che si possa riconfermare questo. D'altra parte, ragioniamo un po', l'arbitro come cresce? Cresce semplicemente confrontando quello che ha fatto in campo con una registrazione tecnologica, non ha altri, sì, altri mezzi, no? Quindi accede alla registrazione della partita, che poi in certi casi rallenta per veder meglio, eccetera eccetera. Quindi per lui la moviola è la scuola, e non è che ci sia, soprattutto se la guarda per conto proprio, diciamo, no? Sì, cioè, a casa tutti sono dotati di questo strumento, gli arbitri, parliamoci chiari, perché sì, questo è il loro procedere. No, e quindi perché cosa serve la moviola in sostanza? Lui dice: io ho arbitrato. Sì, lui ha arbitrato e ha visto da un lato, da una certa posizione. La moviola gli fa vedere anche altre posizioni. Da questo lui può imparare a muoversi e a posizionarsi per cogliere il massimo. Mm-hmm. Quindi mi pare uno strumento di lavoro. Ecco, poi di lavoro. Di lavoro, per l'arbitro di lavoro. Ecco, mi dà l'impressione che della moviola parlino molto, soprattutto le strutture attorno all'arbitro, no? I loro dirigenti, eccetera, eccetera. Ma abbiamo mai sentito parlare male della moviola da un arbitro, quello che va sul campo? Ma guarda, non me lo ricordo neanche io, che uno abbia detto: non voglio la moviola. Anzi, poi adesso vogliamo dire anche così, fare un po' i leggeri. No, la prima cosa che fanno, telefonano all'amico, alla moglie, a casa, per sapere cosa ha detto la moviola di quello che hanno fatto. Certo, sì. Poi ci sono casi come quelli clamorosi, appunto, di Muntari Buffon, che insomma la moviola non serve nemmeno, bastava l'occhio. Sai che a proposito di Arsenal Milan ieri sera e di quello di cui stiamo parlando, mi viene in mente che alla fine il calcio, in gran parte è davvero, lo sport forse, è davvero questione di stimoli e di sollecitazioni. Perché questi tre palloni su tre li hanno beccati per l'appunto dopo che erano stati, come dire, automaticamente richiamati all'ordine da quell'errore. Il Milan ieri sera i quattro gol dell'andata l'avevano smollato sul piano dello stimolo, della sollecitazione, e ha rischiato il disastro. Quindi vale per chi gioca e vale per chi arbitra, probabilmente. No, ma guarda, intanto cominciamo col dire: ci sono fior di teste che abbiamo fatto a suo tempo sull'attenzione, sui rapporti interpersonali all'interno di una contesa, cioè una partita di calcio, in cui tra arbitri e calciatori, parliamo sempre del massimo livello, quindi sì, in Serie A, gli uni e gli altri, non c'è nessuna differenza, intanto. Cioè gli arbitri chi sono? Ci domandiamo. Sono delle persone molto stimolate, molto ambiziose, molto brave, eccetera eccetera, esattamente come i calciatori, no? Quindi non sono diversi. I calciatori sono psicologicamente talvolta deboli, chiamiamoli, no? Una cosa li deprime, un'altra li esalta. Gli arbitri come sono? Esattamente uguali. è una bella riflessione questa, davvero. E quindi, per risponderti, infine, dopo l'errore del poverino, del bravo Romagnoli, perché è anche stato, è stato un bravissimo assistente. Certo. Quella sera dormiva, certo. Cosa vuoi fare? Pensava di essere talmente bravo che nessuno si sarebbe permesso di fargli un gol in quella maniera. Invece è successo. Ecco che non era attento. Quelli di domenica, perché io ti invito a riflettere, prova a rivedere a proposito di Moviola come si muove Copelli, che è quello che dà il gol di Borini. Sì. Ecco, sembra che sia l'attacco, no, del settimo cavalleggeri proprio, no? Cioè, questa bandiera non è che ha fatto un segno, gol, no, è partito che se il campo fosse lungo 3 chilometri faceva 3 chilometri con la bandiera in mano. Cioè, era proprio un'altra cosa. Sì, è una liberazione. Non c'è dubbio. Non accadeva da tanto tempo, prima di Romagnoli, intendo che ci fosse un gol fantasma clamoroso, in Italia, no? di questa notorietà. Se ci fosse stato un episodio una, due, tre settimane prima di quel genere, certamente Romagnoli non sbagliava. È proprio così, perché è talmente raro che poi passa tanti mesi e uno se le dimentica, dopo lui puntuale. Domenica erano tutti pronti lì e la sorte ha voluto che ci fosse subito la controprova, a cui hanno risposto molto bene. Il calcio è anche questo di mode, Paolo, no? Cioè, adesso erano tanti mesi o tanto tempo comunque che episodi, parlo come te, del livello più alto, eccetera, episodi per esempio di razzismo un po' plateali, un po' clamorosi, non ci fossero. Sicché domenica c'è stato questo, diciamo, trattamento leggero, no? nei confronti della curva laziale. Se si fosse... Invece fossimo in un periodo è come le bestemmie, no? Cioè, c'è il momento in cui un dirigente del CONI di stretta osservanza cattolica becca un labiale che non funziona e allora si scatena l'ira di Dio sulle prove TV sulle bestemmie. Beccano uno, due o tre allenatori o giocatori di serie B o C possibilmente, perché se poi bestemmia uno grosso andiamoci piano, che non disturbiamo i manovratori, e poi la moda passa e tutto torna normale. Sì, è un po' proprio così come dici te, in sostanza, no? Solo così, degli slanci, delle fiammate. Noi procediamo a fiammate, no? Perché non c'è la base solida che ci richiama ogni volta a certe attenzioni, sia tecniche che comportamento, se vogliamo. No? Che anche comportamentali, certo. Senti, adesso io so che tra poco ti devo lasciare andare ai tuoi impegni, però abbiamo questo breve intervallo tecnico che dobbiamo fare per aggiornare il traffico, e poi volevo parlare di un altro tuo cavallo di battaglia di questo periodo, nella tua rubrica sul Corriere della Sera, ma anche negli altri tuoi interventi pubblici, che è quello dell'arbitraggio leggero, che a me piace di più definire light, l'arbitraggio light. A parte il fatto che Paolo qua mi sta andando, mi ha fornito dei numeri che Sky ha reso noto con i loro rallenti, insomma, a fidarsi, insomma, che il gol di Scully era dentro i 2 centimetri, quello di Borini di 58, quindi prima ho detto una fesseria, ma comunque 2 in meno sempre di quello di Muntari, che invece era dentro i 60 centimetri. Chiuso, tanto acqua. Sì, io avevo avuto netta la sensazione che quello di Lecce fosse veramente difficile. Ecco, ed è stata una cosa, adesso parliamo così del giusto, bravo il guardaline, perché ha visto 2 centimetri, credo che non li abbia visti, ma che dalla paura di ripetere quello precedente, questa volta nel dubbio abbia dato il gol. Certo. Senti, eravamo arrivati agli arbitraggi leggeri, agli arbitraggi light, è un tuo cavallo di battaglia di questo periodo, e cioè lasciate giocare, lasciate cosa, sono bravi, il gioco deve scorrere, eccetera, e poi a un certo punto le partite degenerano e soprattutto diventa difficile essere severi quando è necessario. Sì, è una cosa che vada bene, secondo me, è diffusa in Europa, l'anima di questa cosa non è nazionale, magari da noi c'è una applicazione così eccessiva, ma non nasce da qua, perché io ieri sera ho visto la partita del Milan, sì. No? Ecco, anche lì ci sono stati falli lasciati andare, non si sa bene perché, voglio dire. Difatti questo arbitro, che talvolta fa anche buone partite, questo giovane sloveno, no, è stato un arbitraggio light, cioè non si assume responsabilità. Ti dirò di più allora, per ricordare cose. Quando abbiamo visto Tagliavento su quella storia dei gol, muovere il braccio, ma dopo fare solo un movimento, in sostanza non è andato incontro a una responsabilità, cioè andare dai guardalinee, cioè quello doveva fare, dire poi sei sveglio, cosa hai visto, perché mi sembrava, eccetera. Invece ha fatto il gesto, ma non ha fatto nulla. Ecco, allora questo, se fosse continuo, se fosse sempre più intensa questa applicazione leggera che tende a trascurare, no? Quindi creando ingiustizie, perché il trascurare non è mai uniforme, no? Trascuri una cosettina, ma poi trascuri anche una cosettona, non matti fuori per doppia ammonizione perché chissà cosa poi diranno. E allora è un arbitro che si sta così andando alla deriva, diciamo, e quindi perde anche quella che è la sua caratteristica, cioè quello di essere l'uomo che giudica, no? Se giudica a metà o secondo certe mode, non è destinato a un grande successo. Lo scorso lunedì, 9 giorni fa, c'eri anche tu a Radio Anch'io Sport, quando Nicchi, presidente dell'AIA, Radio Anch'io Sport su Rai 1 la mattina, quando il presidente dell'AIA Nicchi ha detto basta, da domani applicheremo il regolamento. Io in macchina ho fatto un saltino, non dico rischiato di finire fuori strada, ma quasi, vorrei conoscere la tua reazione. Sì, ma se non... adesso... Nicchi è un po' così molto gagliardo nelle sue affermazioni, no? Per cui va anche capito, perché in quel momento lui voleva difendere, voleva qua. Certo, no, l'arbitro non è che dal 13 di febbraio, adesso non mi ricordo che giorno fosse, non era certo il 13 febbraio, ma comunque decide oggi, da oggi applichiamo il regolamento. Il regolamento è quello lì e dobbiamo applicarlo sempre. Ci potrebbe essere qualche strategia da diffondere, ma del tipo che non vada a inficiare il regolamento, no? Che uno dica qualche cosa, ma dire questo a metà campionato e dire da adesso tolleranza zero, quando sento parlare di tolleranza zero mi vengono i brividi, no? Perché non da ridere, però vuol dire. O mi viene da ridere, quello che vuoi. Ecco, tanto è vero che subito li abbiamo anche cercato nel nostro piccolo, chi eravamo lì, chi c'era lì con Nicky, dire no, ma guarda che forse ti è venuta fuori così, insomma, no, perché non va bene, insomma, no, il regolamento è lì, bello da applicare, eccetera. Adesso cercando, ma lui forse voleva dire dovete essere poco light. Sì, no? Sì, certo. Ecco, li voleva di nuovo concentrati. Però diciamo che non gli è uscita benissimo. Ecco. Sì, no, fa un certo effetto, devo dire. No, fa un certo effetto sentirlo dire. Sì, sì. Senti, ultimo punto per oggi. Il Steckelenburg, ma non Steckelenburg, bensì la casistica, il cartellino rosso e rigore. Allora, io ricordo che questo genere di provvedimenti risale proprio alla fase, al periodo storico della tua giurisdizione, primi anni 90, italiana ma anche internazionale. Erano tempi, secondo me, io ti dico la mia, poi erano tempi un po' da leggi marziali, nel senso che allora si giocava un calcio talmente brutto, talmente scorretto, talmente pieno di falli tattici, eccetera, che oggi forse si potrebbe andare verso una legge un po' meno severa, o no? Sì, è un argomento di grande interesse, devo dire, no? Premesso che sabato scorso l'IFAB, cioè quell'istituto della FIFA che si occupa del regolamento e dei pochi cambiamenti che è possibile fare, no? Sono 4 rappresentanti delle 4 federazioni britanniche più altri 4 voti, e cambia qualcosa se 6 persone dicono una cosa e coincidono, sì. No? Allora, viene accettato una proposta di cambiamento, eccetera. Allora, il concetto di Steckelenburg, che secondo la regola esistente prima di sabato e dopo sabato è stata un'applicazione corretta, certo. Corretta, perché lui è andato secco sull'uomo, certo. E il pallone era da un po' distante. E per giudicarla bene dobbiamo partire perché è stato fatto tutto questo cambiamento. Allora, io ti posso testimoniare che attorno agli anni 90, in corrispondenza di un calcio brutto eccetera eccetera, ci si accorge di due o tre cose nel periodo 90-92-93. Uno, il 10% del tempo di gioco era fermo, era in gioco ma era nelle mani dei due portieri, i quali rallentavano le riprese del gioco a loro piacimento, vero. Buttavano il pallone per terra, poi lo riacchiappavano, potendo giocare nell'area di rigore con le mani, a differenza di tutti gli altri, no? Ecco, cioè il 10% del tempo di gioco era di assoluto dominio di due persone, di due portieri, no? Che sono solo 2 su 22, quindi avevano una, no? E gioco perso. Allora ho cominciato a dire, no, qua bisogna accelerare. No? Inutile che adesso andiamo a tante partite importanti dove questo è stato macroscopico, potremmo anche citare alcune del mondiale dell'82. Come no? No, ecco. Retropassaggi, eccetera. Ecco. Certo. No, poi un'altra cosa fondamentale, il portiere può riprendere il pallone passato, il retropassaggio da un suo compagno con le mani. E allora qui era una clamorosa svista regolamentare, perché i due giocatori, il portiere può giocare con le mani in area di rigore perché gli viene concesso questo, no? Perché una volta non c'era il portiere, non è nato portiere. Però dopo alla fine hanno detto ma stiamo tornando dietro di tanti anni, certo. Uno giochi in quell'area lì con le mani. Però poter avvalersi delle mani per uno retropassaggio voleva dire favorire da matti la difesa, no? La quale arrivava a 30 metri, non sapeva dove mettere il pallone. Oop. E lo dava al portiere, il quale poi prendeva il pallone in mano e se lo teneva così accoccolato facendo arrivare gli attaccanti. Quando quindi la squadra avversaria si era sgranata verso di lui rilanciava il pallone e quindi eccetera eccetera. Questo è stato. Poi c'è stata la chiara occasione da gol per impedire che ci fossero gol, no, perché questo voleva, cioè per fare più gol per favorire i gol, ma soprattutto impedire che molti difensori finali o addirittura il portiere andassero fuori dell'area di rigore, portieri, alcuni erano italiani che facevano sto giochino, e abbattessero l'avversario che era sgusciato dalla difesa, no, fuori dall'area, dopodiché si prendevano una bella punizione, a quei tempi nemmeno il giallo. È vero. Ecco, allora, questo è il provvedimento globale che è stato fatto quasi tutto contro i portieri, no? Tanto è vero che sono scomparsi i portieri che giocavano in questa maniera, sono venuti fuori i portieri che sono bravi a giocare il pallone con i piedi. In tutt'altra maniera, si capisce, che interpretano il ruolo in maniera completamente diversa rispetto a un tempo. Sul concetto poi della chiara occasione da gol, che prevede non solo che il portiere venga espulso, anche il difensore può essere espulso in area, fuori dell'area, anche il difensore che para il pallone che sta entrando in porta giustamente deve essere espulso, perché lui cosa fa? Non accetta il gol che ormai è imminente, perché tanto dice meglio il rigore perché lo può sbagliare. E intanto vai fuori però. Ma allora la regola dice benissimo, tu punti sul fatto che quello possa sbagliare il rigore, come tassa di questa tua scelta sei espulso. Quindi vedi, se tu vedi la cosa nel suo insieme, trovi che c'è una sua logica. Sul portiere effettivamente in certe situazioni sembra persecutoria l'espulsione a parte il rigore, no? Ecco, lì io andrei un po' a guardare con attenzione, ma non con questa generale volontà di tirar via l'espulsione così solo perché poverino il portiere. Non so se... Ti sei fatto altri amici nella categoria dei portieri, su questo non c'è nessun dubbio, però soprattutto Paolo, ti ho tenuto qualche minuto in più del previsto, ma perché quando tu cominci a parlare, soprattutto se si apre il libro e si ripassa, tu ti scateni nelle tue lectio magistralis di storia dei regolamenti e noi siamo qua a bocca aperta ad ascoltare. No, perché guarda, ricordo, e dopo vi saluto e ti ringrazio dell'invito, che non deve essere l'ultimo. Ti voglio dire, il pallone deve essere giocato da tutti, Certo. Cioè, una delle regole fondamentali del gioco del calcio è che il pallone non può essere depositato nelle mani di un portiere. No, perché? Perché si perde la possibilità per gli altri, no? Perché il gioco del calcio è basato su un'azione e sulla controazione, cioè continua. Questo è, e questo avviene soprattutto quando un arbitro strong e non light fischia i falli, dopodiché la palla va giustamente a chi ha subito un fallo. Certo, un arbitro non light è perfetto, non è certamente l'ultima volta, questo te lo posso garantire, ogni tanto aggiorniamo la casistica. Volentieri. Grazie Paolo Casarin. Buona giornata a tutti. Scelgo un messaggio solo tra i tanti arrivati per ringraziare Paolo Casarin. È di Marco Manzardo, arriva da Vicenza, e dice: Casarin è sempre troppo piacevole da ascoltare, preferirei però vederlo al posto di qualche suo collega a dirigere la classe arbitrale. Condivido in pieno dei dirigenti arbitrali che ho conosciuto io, dei dirigenti operativi, degli allenatori, degli arbitri. Casarin è stato di gran lunga il migliore, il più innovatore. Poi avete sentito a quali e quante riforme ha collaborato e partecipato dal vivo. Daniele scrive da Pistoia, e poi l'ultima davvero, e voltiamo pagina, non c'è niente da fare se si vuole discutere seriamente. Le discussioni vanno fatte con chi ha davvero qualcosa da dire, come nel caso dell'espulsione a rigore con Casarin. Pareva anche a me che fosse il caso di rimetterci le mani, ora ho qualche dubbio in più, è vero, in effetti, però rimane il fatto che quando non c'è una particolare premeditazione da parte del portiere, o una particolare violenza nella sua uscita, la doppia sanzione è grave. Andrea da Padova scrive: secondo me quando Casarin parlava di Mondiale 82 pensava anche al mito Zoff. Lei cosa dice? No, io dico di no, io credo che Zoff riceveva i suoi bravi passaggi all'indietro e tratteneva un po' il pallone, no? in certe partite, ma come facevano esattamente tutti. Io credo che pensasse ad altri, per esempio a Schumacher, che non solo il pallone tratteneva, ma che poi fece quell'uscita da criminale su Battiston, spedendolo all'ospedale e togliendo alla Francia una legittima finale contro l'Italia, molto legittima. Marcello, chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno Tor Garanzini, sempre un piacere poter parlare con lei. Io mi sto riprendendo adesso dallo shock di ieri sera, come sono milanista, e credo che una figura del genere, io ho 47 anni, ne ho viste parecchie, quella volta il famoso Fatal Verona, la Corugna, ma quasi peggio questa, perché secondo me prendere 3-0 da una squadra come l'Azza nel primo tempo è una cosa assurda. Vorrei dare le sue motivazioni, io ne ho una, mi permetto, che la maggiore responsabilità è dell'allenatore, che lei secondo me porta sempre un po' in palma di mano nel buon Allegri, ma ha dimostrato ieri la poca esperienza internazionale, è andato lì pensando forse di fargli un boccone l'Azan con le tre punte, che secondo me è stata una grande presunzione, con giocatori che tipo Meshba che giocavano poverini nel Lecce fino a poco tempo fa. Secondo me si devono affrontare anche queste partite, va bene che si vinceva 4-0, con più umiltà. Vorrei da lei così, suo solito parere contrario, che mi fa molto piacere sentire. Grazie. Anche se il contrario del suo, però proprio esattamente il contrario, credo che. Io non so quanti giocatori aveva a disposizione ieri sera Allegri, effettivamente. Credo che fossero quegli 11 e quei 2-3 cambi che aveva, credo non avesse di più. Dopodiché il giorno che qualcuno mi dirà che Allegri di sera gli ha detto: oh, ragazzi, piano, andiamo in campo, tanto queste sono pippe e non stiamo a sudare perché dobbiamo pensare a Lecce domenica, il giorno che qualcuno mi dice questo, bene, dato che escludo che l'allenatore dica queste cose prima, io penso che l'allenatore non c'entri nulla, ma Allegri in questo caso come un altro in un altro, che siano le teste dei giocatori invece che inconsciamente vanno in campo pensando che tanto una pratica è finita. Secondo me non hanno tutti i torti, no, non hanno tutti i torti di pensarla così. Poi c'è, una volta ogni tanto, c'è la partita in cui dopo 7 minuti ti fanno un bel movimento offensivo su un calcio d'angolo, però tu, che appunto non sei abbastanza concentrato, ti fai far su come un coscritto, ti mettono il primo, poi sbaglia un rinvio il più bravo della difesa e che diventa un assist per gli altri, sono 2-0, al 2-0 in poi diventa dura. C'era il figlio di Ganz in panchina ieri sera, attaccante della primavera, insomma erano proprio contati, non, è una di quelle volte in cui non si può dire che l'allenatore ha sbagliato formazione, perché quelli erano. Dunque, signor Garanzini, vorrei, se possibile, usare la sua trasmissione per chiamare a raccolta tutti i tifosi del Torino, scrive Roberto da Crema. Abbiamo creato una pagina su Facebook per riportare Mondonico a casa sua, cioè al Torino. Si chiama Mondonico, presidente del Toro. Subito tutte le adesioni saranno in seguito trasformate in firme da inviare al presidente Cairo. Grazie per l'opportunità, grazie a lei per aver scelto questo canale e questa trasmissione. Mi lasci soltanto dire che Mondonico è fresco reduce da una delusione cocente, perché poi si è saputo e si è scoperto che lui ieri non ne sapeva assolutamente nulla, era in cascina a Rivolta d'Adda e stava preparando il programma per la settimana del Novara. Io, dopo una tramvata del genere, prima di fargliene rischiare un'altra, perché un conto sono i tifosi sentimentali che lo vorrebbero riportare, eccetera, e un conto poi sarebbe la realtà in cui andrebbe a inserirsi o magari a scontrarsi, io ci penserei non tre volte, 30, prima di varare un'iniziativa del genere. Massimo ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buonasera, dottore. Dica. Volevo un suo parere per quanto riguarda la valutazione dei giocatori, cioè quanto è importante un giocatore per una squadra o quando una squadra è importante per un giocatore. Cioè, la domanda è, secondo me Ibrahimovic mi sembra molto molto sottovalutato, sempre a livelli altissimi naturalmente, non le sembra? Dunque, la prima parte della domanda è alta e pura filosofia, e un giorno o l'altro facciamo un convegno da qualche parte e ci prendiamo un paio di giorni di tempo e vediamo di portare, arricchire questo convegno di contributi vari da tanti punti di vista. Su Ibrahimovic mi sembra che andiamo un po' invece più sul concentrato. Ibrahimovic è un che sia un campione, mi sembra che sia fuori discussione, è uno che va abbastanza a giornate e a periodi, è uno a carico del quale nel suo essere campione bisogna tenere conto delle sue mattane, che sono autolesionismo puro per lui e soprattutto per la squadra in cui gioca, perché non è che l'hanno squalificato per le sciocchezze che fa una volta sola, insomma, diciamo che è ampiamente recidivo. E poi non c'è dubbio che sia un giocatore, un campione Maramaldo, nel senso che non sugli uomini morti alla maniera di Maramaldo, ma insomma che le squadre medio-piccole siano gli avversari medio-piccoli siano le occasioni ideali per lui, mentre invece nelle grandi partite fa indubbiamente un pochino più fatica a essere protagonista, o perlomeno protagonista a quella maniera. Farei un momento di pausa rispetto a tutti gli ascoltatori già collegati, che ringrazio comunque, per un minimo di vigilia. Lasciamo magari stare i commenti di ieri sera, perché sono un po' sono sentiti e un po' sono abbastanza scontati, no? I commenti sul Milan. Mi proietterei sulle 18:30 di stasera, tre partite di recupero di campionato, e comincerei dalla vigilia di Conte. Perché dovrebbe deprimersi? Cioè, la domanda mia è questa: perché dovrebbe deprimersi? Visto il campionato straordinario che stanno facendo, quindi anzi, non guardiamo mai in casa degli altri, pensiamo a noi, pensiamo a dare il massimo, pensiamo a dare tutto noi stessi, e poi vediamo a fine anno questo massimo cosa ci porterà. Fino adesso questo massimo ci ha portato ad essere di nuovo competitivi. Vucinic penso che sia l'elemento più talentuoso in assoluto, no? Che abbiamo nella squadra. È il calciatore che da un momento all'altro può inventarsi la giocata. Me lo tengo ben stretto. È inevitabile, ci sono dei momenti in cui uno può anche avere dei problemi e non fare una grandissima prestazione. A Conte di fronte si troverà il Bologna di Pioli. Ecco la sua vigilia. Adesso, visto che me lo chiedi, lo racconto, perché quello è stato un gol da raccontare. Ho anticipato, la gran partita di Coppa Italia con la Samba Intesa, che è una squadra di Serie B, però il gol è un anticipo a metà campo. Ho fatto un 1-2 con Platini, un 1-2 con Paolo Rossi, mi sono presentato davanti al portiere e ho fatto un gol bellissimo. Il Bologna deve permettersi e dovrà giocarsi tutte le sue carte mettendo in campo le sue qualità, cercando di giocare una partita la migliore possibile. Perché è chiaro, è inevitabile che abbiamo di fronte un avversario molto forte e che quindi la nostra prestazione dovrà essere una prestazione la più precisa, la più tecnica, la più tattica, la più volenterosa possibile. Il nanetto a cui Pioli si riferiva era l'unico gol che segnò in carriera con la maglia della Juventus e gli accadde in Coppa Italia contro la San Benedettese. Francesco ha chiamato da Parma, buongiorno. Francesco aveva chiamato. Ah no, dica. Sono tifoso del Parma, vedo che in queste ultime due partite il Parma è stato molto bistrattato, ma non voglio parlare di questo perché cosa vuol mai, un fuorigioco, uno segnalino può anche non vedere. Quello che mi ha meravigliato è stato più che altro quel fallo di mano in area del Napoli, che tutti i giocatori del Parma sono precipitati sull'arbitro, ma e questo non si è neanche degnato di andare dal segnalino a chiedere se aveva visto il fallo o meno. Cioè, era troppo sicuro di se stesso. Sì, a volte sono troppo sicuri di se stesso e di questo accidente di auricolare che portano. La stessa cosa che diceva Casarin prima. Evidentemente Tagliavento, adesso tornando a una sequenza che tutti abbiamo un po' più presente, Tagliavento indica un po' timidamente il centrocampo, vuol dire che per lui è gol, incrocia l'occhio dell'assistente che evidentemente non gli dà la stessa sensazione, cioè non sta andando con la bandierina verso il centrocampo, per di più evidentemente gli dice all'auricolare guarda che non era gol e si accontenta lì anche perché poi non è stata una sequenza incredibile, no? Perché nel frattempo Buffon ha rilanciato il contropiede e c'è la Juve in 5 contro 4 che sta puntando verso la porta avversaria e a quel punto, passate quelle poche frazioni di secondo, diventa molto più difficile fermare un'azione del genere. A Parma indubbiamente era diverso, forse qualche lasciar perdere l'auricolare, provare a guardarsi in faccia e a dire come ha detto Casarin, dice ma dormivi, no? L'arbitro arriva e dice guarda lì, siamo sicuri o stavi abbioccandoti. Vabbè, ripartiamo dal 7 marzo di Nicola Filippone. Sembra ieri. 7 marzo 1982. L'Inter di Bersellini si aggiudica il derby lasciando il Milan di Galbiati al penultimo posto in classifica. Protagonista è l'austriaco Prohaska, che stabilisce un curioso primato. In soli 7 minuti, tra il decimo e il diciassettesimo, segna il gol dell'1-0 e realizza l'autorete del momentaneo pareggio, deviando nella propria porta un calcio di punizione di Antonelli. Il 2-1 finale, al 32esimo, porta invece la firma di Altobelli. Nella ripresa i nerazzurri hanno anche la chance del 3-1, ma Beccalossi dal dischetto si fa ipnotizzare da Piotti. La seconda stracittadina persa certifica ulteriormente la disastrosa stagione del Milan, che avrà un sussulto d'orgoglio nel finale, ma non riuscirà a evitare una drammatica retrocessione. È morto Smolarek, un gran giocatore polacco che fu tra i protagonisti di quella Polonia che attraversò la strada dell'Italia al mondiale dell'82, aveva 54 anni, ha giocato 60 partite con 13 gol con la maglia della Polonia tra il 1980 e il 90. Lunedì prossimo Gianni Rivera riceverà a San Siro, insomma, diciamo sul suo palcoscenico prediletto, riceverà il premio del presidente UEFA per il 2011, è un premio che ovviamente gli consegnerà Michel Platini come presidente dell'UEFA, che è stato istituito qualche anno fa tra i grandi campioni che hanno illustrato epoche diverse del calcio. Si era inaugurata la galleria nel 2007 con Di Stefano, niente meno che Alfredo Di Stefano, l'anno dopo Bobby Charlton, Eusebio, lo scorso anno Copà e quest'anno Gianni Rivera, mi sembra davvero un grande onore. Dunque, Stefano dalla provincia di Cagliari, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Dica. Vorrei uscire dal binario di Erni con una considerazione. Io personalmente ritengo che personaggi calcistici che resteranno nella memoria oggi non ce ne siano più, anzi oserei dire che c'è poco romanticismo e troppo business. Infatti nel mondo del calcio odierno ci sono solo diatribe, polemiche, gol fantasma, e soprattutto razzismo. Il calcio meriterebbe altro. Poi vorrei chiederle un aggettivo per definire il mitico Nereo Rocco. Grazie e arrivederci. Beh, uno l'ha già detto lei, no? Perché mi pare che mitico sia discreto, però mitico un po' inflazionato. Non so, mi viene unico, mi viene irripetibile, ma anche questi sono un pochino inflazionati. Un aggettivo è poco forse per... non so, proprio ieri ho visto una sua fotografia storica che mi è tornata alla mente, che avevo cercato a lungo e che non riuscivo più a rintracciare. Una fotografia che risale all'epoca del Torino, in un raduno estivo. È una foto che parla da sola e che poi non, ovviamente in radio non ve la posso mostrare, insomma un giorno o l'altro ci sarà il modo, magari a questa mostra di Trieste, di farne l'immagine che si inaugurerà a maggio, di farne l'immagine copertina di questa mostra, perché è veramente una di quelle fotografie che, altro che un aggettivo, da sole parlano e descrivono, raccontano un'epopea. Prima degli ultimi due ascoltatori volevo sentire la vigilia brevemente di un altro recupero importante di oggi, che è Parma-Fiorentina, Donadoni e Rossi. Ma noi abbiamo solo una possibilità, che è quella di cercare di conquistarci i punti sul campo, come ho già detto 15 giorni fa, no? È chiaro che in questo ragionamento ci va che abbiamo creato 3, 4, 5 occasioni da rete e ne abbiamo concretizzata solo una. Dobbiamo essere più bravi in questo, quindi noi dobbiamo essere superiori in questo senso. Noi, al di là dell'aspetto tattico, al di là delle problematiche che ci abbiamo, dalle caratteristiche dei giocatori, noi, l'ho detto, avevamo 14 finali, adesso ce ne abbiamo 13. Laconico, tant'è vero che mi ha colto un po' di sorpresa nella riapertura del microfono. La regola sul passaggio indietro, scrive Rainer, da Milano, è figlia del nuovo sistema di gioco basato sul pressing esasperato che introdusse il grande Arrigo. Chi giocava contro il Milan faceva decine di passaggi al portiere perché quella squadra occupava militarmente le metà campo avversarie. Che ne pensa? Penso che lei ricorda male, Rainer, perché la squadra, la maggior produttrice di passaggi all'indietro era il Milan. Era proprio il Milan che giocava che ogni volta che il pallone recuperava il pallone nella propria tre quarti lo scaricava indietro al portiere per ricominciare da lì l'azione, ovviamente con le mani, con lanci con le mani sistemi abbastanza agili, più sicuri, no? più tranquillizzanti. Luca, Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Tanti complimenti per la sua trasmissione. Sì. Glieli voglio fare anch'io. Siamo in attesa della Juventus, fra tre ore c'è la Juventus a Bologna, siamo molto preoccupati qui a Bologna. Pronto? Sì, mi sembrava un pre-bollettino di guerra, mi aspettavo la musichetta di Radio Londra e allora, mancandomi quella... No, siamo molto preoccupati, le ultime due domeniche la Juventus è stata molto favorita dagli arbitri. Il Bologna non può permettersi di perdere, di regalare punti per sviste, diciamo così, arbitrali. Però capita, sai. È fondato questo timore che ci si possano essere delle sviste per non ammassare il campionato? Perché una Juventus che perdesse a Bologna o che soltanto pareggiasse allontanerebbe un po' troppo dal Sì, Luca, è un argomento penoso, sinceramente molto penoso. Le dico soltanto che nell'ultimo turno la Juventus non è stata affatto favorita, perché a fronte di un errore del guardaline e di un fuorigioco nel gol di Receglie, il gol del pareggio del Chievo è stato segnato da uno che doveva già essere sotto la doccia a quell'ora, quindi non vedo questa grande penalizzazione. Ho paura che Gerardo da Roma o dice in 10 secondi oppure dai Gerardo, sintesi. Sì, io volevo fare una critica costruttiva a lei, sì. Perché la trovo troppo schierato, cioè magari un po' più obiettivo, cioè vedere. Ma schierato intanto come? Riguardante per la Lazio, per esempio, ieri si è mancato di dire un po' generalmente, non solo lei, che c'è stato uno screzio tra il giocatore della Roma e il giocatore della Lazio, e a volte ci sono stati cori che sono sempre da condannare, per carità, però anche nella Lazio ci sono giocatori di colore e certo. Quello è stato un gesto, secondo me, non razzista, di cosa verso il giocatore che ha fatto lo screzio. Io trovo una cosa molto più grave il discorso di Buffon, che secondo me sarebbe stato meglio toglierlo da nazionale. sì, e possibilmente mandarlo in esilio, Gerardo, in esilio. Isola di Sant'Elena, Gerardo, grazie del suo intervento veramente prezioso, ci ha fatto sforare di 40 secondi, mi dispiace molto, grazie a Fabio Cantadoni regia, a Franco Piattenidi in redazione, così imparo a passare l'ultima telefonata, buon pomeriggio a tutti.